Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, sulla vicenda di Pomigliano d'Arco sono state dette tante cose, ma mi è parsa significativa la frase di un sindacalista intelligente che, a mio parere, fotografa la realtà. La riporto in questa mia lettera perché voglio, in questo modo, sottoscriverla. Eccola qui. Senza l'accordo sindacale del 15 giugno, il progetto Panda a Pomigliano sarebbe già saltato, per la gioia di chi, anche nella Fiat, ha sempre ritenuto il trasferimento della produzione della Panda a Pomigliano un azzardo industriale. Continua il sindacalista. Senza l'accordo, lo stabilimento sarebbe destinato al definitivo declino e a Pomigliano resterebbero solo la disperazione e la camorra. Il progetto Fabbrica Italia della Fiat, con il conseguente aumento della produzione di auto nel nostro paese, verrebbe compromesso e l'abbandono di Pomigliano da parte di Marchionne e della Fiat rappresenterebbe anche un colpo mortale alle speranze di attrarre nuovi investimenti e nuove iniziative al sud. Con l'accordo, conclude il sindacalista, è stato garantito ai lavoratori il più importante diritto costituzionale, il diritto al lavoro e a un reddito. Grazie, Cesare. Caro Cesare, è giusto sottolineare che il primo diritto di un lavoratore è quello di lavorare. Potrebbe sembrare un paradosso o una banalità, ma non è così. Il lavoro non è qualcosa che può venire creato per decreto o per legge, ma deve nascere dall'unione tra la volontà, la capacità, lo spirito organizzativo dell'imprenditore e la collaborazione costruttiva di chi presta la propria opera. È così fondamentale che si mantenga l'occupazione e si creino nuovi posti di lavoro, che le imprese siano competitive, che producano prodotti innovativi, di qualità e a basso costo. Certo, i diritti dei lavoratori vanno difesi e protetti, ma senza dimenticare i doveri, che sono essi stessi alla base di ogni rapporto sociale ed economico. Caro direttore, non sono riuscito a capire un punto fondamentale a proposito della questione di Pomigliano. Se a Pomigliano è così difficile lavorare, e invece in Polonia o in Serbia si lavora così bene, perché la Fiat propone un investimento così importante proprio in questo stabilimento? Anche con il contratto proposto non è sicuro che si possa vincere certe cattive abitudini nel futuro. Io ho alcune ipotesi, ma nessuna mi convince completamente. Esiste un accordo politico segreto perché la Fiat non chiuda contemporaneamente due stabilimenti in Italia. La situazione a Pomigliano è attualmente molto meglio di quanto la si dipinge e il nuovo accordo serve poi anche come punto di partenza per gli altri stabilimenti in Italia. Esiste una pressione da parte della camorra. Oppure le cose in Polonia non vanno bene, o il trasporto della Panda è troppo oneroso, viste le scarse vendite di quest'ultima nei paesi scandinavi. Norbert. Cara Radio 24, mio padre se n'è andato il 26 gennaio di quest'anno. Era un funzionario pubblico. Un uomo dello Stato, così come intendeva lui. Mio fratello Roberto, scartabellando fra le scartoffie della casa dove viveva papà, e dove ora è rimasta mia madre, per fare un po' di pulizia di vecchi documenti, ha rinvenuto un assegno, datato 1976. 400.000 lire, la somma da incassare. Nello spazio per le girate campeggia una dedica. Dedico questo assegno ai miei figli, Vincenzo e Roberto, quale testimonianza di rettitudine e libertà. Non l'ho posto all'incasso, perché fu rilasciato contro il mio volere, nel tentativo di acquisire la mia volontà all'interesse altrui. Dicembre 1976, papà. È singolare e fa quasi tenerezza leggere la dedica lasciata da mio padre dietro questo assegno ritrovato in soffitta dopo la sua morte. Una dedica singolare, quasi anacronistica, pensando all'oggi, pensando a tutto quello che si sente e si dice in giro. Fa tenerezza pensare a quelle 400.000 lire, soprattutto se confrontate con gli eventi attuali. Fa ancora più tenerezza quel senso immacolato del dovere e della rettitudine. Quel coraggio di difendere la propria libertà morale e la propria autonomia di pensiero. Quell'uomo oggi, qualcuno, lo chiamerebbe fesso. Erano tempi diversi, erano uomini diversi, così lontani dal credo di oggi e dagli anemoni che fioriscono un po' ovunque. Sicuramente questo mondo non era più il mondo di mio padre, non era più un mondo per mio padre. Alla sua memoria, Vincenzo. Gentile direttore, anni fa un magistrato potentino tentò, senza il minimo successo, di processare il cardinale Michele Giordano. Oggi i magistrati di Perugia cercano di incastrare il cardinale Crescenzio Sepe sulla vicenda propaganda fide e l'affido a prezzi di favore, se non addirittura gratis, a politici e amici della cricca. Quella dei magistrati è una casta fortissima, ma in termini di intelligenza, preparazione e risorse è molte posizioni sotto quella dei cardinali nella scala del potere. Sarebbe bene che qualcuno lo facesse sapere ai magistrati, perché sprecano tempo e denaro dello Stato. Infatti non occorre essere uno scienziato per capire che questo tipo di indagini è inevitabilmente destinato all'archiviazione. Un cardinale non è così scemo da mettersi in condizioni di essere processato da 4 magistrati di provincia. Intanto però i magistrati, tramite i mass media, gettano fango sulla Chiesa Cattolica e questo probabilmente è l'unico vero scopo delle loro manovre, anche se è improbabile che lo facciano consapevolmente. Alvise. Cara Radio 24, Marcello Lippi come Massimo D'Alema. Grandi antipaticoni, arroganti e incapaci di cambiare giocatori e schemi contro i loro avversari. Uno sfida i modesti e incapaci scarponi neozelandesi al grido di palla lunga e pedalare. L'altro sfida il cavaliere di Arcore col solito vecchio e logoro giustizialismo. Come direbbe il cupo Nanni Moretti, con questi dirigenti non vinceremo mai. Insomma, Berlino è lontana, così come la magica notte mondiale di Madrid 82. Allora al Quirinale c'era il passionale Sandro Pertini. Adesso il grigio e mesto Giorgio Napolitano. Pietro. Gentile direttore, Antonio Di Pietro è sempre stato tra i primi a chiedere insistentemente le dimissioni dei politici indagati dalla magistratura, ancor prima di qualsivoglia sentenza, addirittura ancor prima del classico avviso di garanzia. Una 15 di anni fa, l'attuale leader dell'Italia dei Valori sbatteva in galera persone senza un processo, senza una sentenza di colpevolezza. L'ultima sua presa di posizione è quella relativa al caso Scajola per la casa con vista Colosseo. Non è certo questa la sede per discutere delle effettive responsabilità dell'ex ministro, ma Di Pietro disse letteralmente ai telegiornali «L'hanno preso con il sorcio in bocca e se ne deve andare a casa». Oggi egli stesso è indagato per truffa. Si tratta di una vicenda di rimborsi elettorali di 5 o 6 anni fa. Se fosse coerente dovrebbe dimettersi, perché è stato preso con il sorcio in bocca. Non è forse questa la sua logica e razionale analisi? Marco. Caro direttore, è possibile che a 48 anni il vicepresidente del PD parli ancora di fascismo e dei compagni che ci liberarono? È come se Obama parlasse ancora di Eisenhower, non crede? Gianfranco. Cara Radio 24, sono di sinistra e sinceramente sono d'accordo con quei ragazzi del Partito Democratico che non vogliono essere chiamati compagni. È giusto e doveroso che non vengano chiamati compagni perché il PD ha preso le distanze dalla sua storia. Giustamente vuole guardare avanti. Allora, che guardi avanti? Lasciamo il termine compagni a chi porta realmente ancora avanti l'eredità storica del vecchio PC. Lasciamo che all'interno del PD si chiamino fratelli e sorelle, amici e amiche, camerati e camerate, tizi e cai. Ma ormai compagni non lo sono più. Perché io nella parola compagno vedo un mio simile, con i miei problemi e le mie speranze. Quelli del PD, sinceramente, non li vedo molto attenti ai miei problemi. Walter. Cara Radio 24, quando frequentavo le elementari, metà anni 50, quotidianamente udivo alla radio il Gazzettino Padano. Padano è un aggettivo derivato dal nome proprio Po, che individua un bacino fluviale ascrivibile al fiume e ai suoi affluenti, la Padania appunto. Quindi la Padania esiste da molto tempo prima di Fini, Bocchino e compagnia, ed esisterà anche dopo la loro scomparsa. A questi signori non fa piacere, ma è ora che ne prendano atto. Giuseppe. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.